Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Dentro la caverna, Robert Jordan sedeva su uno degli sgabelli di cuoio, in un angolo presso il focolare, e ascoltava la donna. Pilar lavava i piatti. La ragazza, Maria, li asciugava e li riponeva inginocchiata davanti all'anfratto della parete che serviva da credenza. «È strano», disse Pilar, «che il sordo non sia ancora venuto. Dovrebbe essere già qui da un'ora. Gli hai fatto dire che venga?» «No, viene ogni sera». «Forse sta facendo qualche cosa, un lavoro». «Forse», la donna disse. «Se non viene, domani bisognerà andarlo a trovare». «Sì, sì, è molto lontano di qui». «No, sarà una bella passeggiata, ho bisogno di moto», disse Pilar. «Posso venire anch'io?» chiese la ragazza. «Posso venire anch'io, Pilar?» «Sì, bellezza», disse la donna. Poi, girando il viso largo verso Robert Jordan, «non è carina? Come la trovi? Un po' magra, «A me», disse Robert Jordan, «mi piace molto». «Lui è un comunista», disse Maria. «I comunisti sono gente molto seria». «Sei un comunista?» «No, sono un antifascista». «Da molto tempo?» «Da quando ho capito il fascismo». «Da quando, cioè?» «Da quasi 10 anni». «Non è molto», la donna disse. «Io sono repubblicana da 20 anni». «Mio padre è stato repubblicano tutta la vita», disse Maria. «Perciò lo fucilarono». «Anche mio padre è stato repubblicano tutta la sua vita», disse Robert Jordan. «E anche mio nonno». «In quale paese?» «Negli Stati Uniti». «Li hanno fucilati?» «Che va», disse Maria. «Gli Stati Uniti sono un paese repubblicano e lì nessuno è ucciso perché è repubblicano». «Comunque è una buona cosa avere un nonno che era un repubblicano», disse la donna. «È segno di buon sangue». «Mio nonno era nel Consiglio Nazionale Repubblicano», disse Robert Jordan. Questo fece impressione anche a Maria. «E tuo padre lavora sempre per la Repubblica?» domandò Pilar. «No, è morto». «Si può chiedere come è morto?» «Si uccise». «Per non essere torturato?» la donna domandò. «Sì», disse Robert Jordan, «per non essere torturato». Maria aveva gli occhi pieni di lacrime. «Mio padre», disse, «non riuscì ad ottenere un'arma. Oh, sono molto contenta che tuo padre abbia avuto la fortuna di ottenere un'arma». «Sì, fu una bella fortuna», disse Robert Jordan. «E se cambiassimo discorso?» «Ah, vuoi un'altra tazza di vino, Robert?» gli chiese. «Sì, perché no?» «Ti toccherà un ubriacone come a me», disse la donna di Pablo. «Ascoltami, inglese». «No, inglese, americano». «Allora ascoltami, americano. Dove pensi di dormire?» «Fuori, ho un sacco a pelo». «Bene», disse Pilar, «la notte è chiara e sarà fredda». «Dunque fuori», disse Pilar. «Tu dormi fuori e la tua roba può dormire con me». «Bene», disse Robert Jordan. Chiuso nel sacco, Robert Jordan aveva l'impressione di aver dormito a lungo. Il sacco era steso sul terreno del bosco, sul lato riparato dalle rocce dietro l'orifizio della caverna, e nel sonno si girò su un lato, andando a cadere sulla sua pistola, legata al polso con un cinturino che egli aveva posato accanto a sé nel sacco quando si era addormentato. Spalle e schiena stanche, le gambe sfinite, i muscoli tesi dalla stanchezza, al punto che il terreno duro gli era sembrato morbido e anche solo lo stendersi nel sacco, sotto l'imbottitura di franella, gli aveva dato una voluttà. A questo punto sentì una mano sulla spalla e si voltò bruscamente, le dita della destra strette intorno al manico della pistola nel sacco. «Ah, sei tu», disse. Era Maria. Lasciò cadere la pistola, allungò fuori le braccia e attirò a sé la ragazza. Nello stringerla sentì che tremava. «Vieni dentro». La ragazza voltava la testa tremando. Egli le afferrò con una mano il polso mentre la teneva ferma con l'altro braccio. «Vieni dentro, coniglietto», disse baciandola sulla nuca. «Ho paura». «No, non aver paura. Entra dentro». «Come?» «È semplice. Ficcati dentro. Posto ce n'è. Vuoi che ti aiuti? No, disse Maria. E subito fu nel sacco, ed egli la strinse forte a sé, cercando di baciarle le labbra. Lei affondava la faccia nel fagotto degli abiti, ma gli aveva buttato le braccia al collo. E a un tratto egli sentì quelle braccia allentarsi, e la ragazza si rimise a tremare quando la tenne stretta. «No», disse ridendo, «non aver paura, è la pistola!» Sollevò la pistola e se la fece scivolare dietro. «Mi vergogno», disse Maria voltando in là la faccia. «No, non devi vergognarti, su, calmati!» «No, non sta bene, mi vergogno e ho paura!» «Ma no, coniglietto mio, per favore, no!» «Non sta bene se non mi ami!» «Ti amo!» «Io ti amo! Oh, come ti amo! Mettimi la mano sulla testa!» Ella disse, continuando a sfuggirgli, il viso affondato nel fagotto degli abiti. Egli le posò la mano sulla testa e la carezzò. E a un tratto la faccia della ragazza si alzò dal fagotto e lei gli fu tutta fra le braccia, stretta forte a lui. Gli accostò la faccia alla faccia e piangeva. Com'erano adesso, ogni difesa era sparita tra loro. Dove era stata stoffa ruvida, tutto era adesso liscio, con una levigatezza e una elasticità ferma e rotonda, e una lunga freschezza calda, fresco di fuori e caldo di dentro, lunga e lieve, strettamente allacciante, strettamente allacciata, solitaria, svuotante, e che dava felicità. Giovane e amante. Ed ora tutto era liscio e ardente, in una solitudine svuotante, stretta, angosciosa, e così grande che Robert Jordan sentì di non poterla sopportare più. «Hai già amato altri?» chiese. «Mai!» Poi, abbandonandosi a un tratto come morto nelle sue braccia, «però mi hanno fatto delle cose». «Chi?» «Diversi». Ora Maria giaceva perfettamente immota, la testa voltata, come se il suo corpo fosse morto. «Ora non mi amerai più. Ti amo», egli disse. Ma gli era accaduto qualche cosa, ed ella lo sapeva. «No», essa disse, e la sua voce era opaca e senza risonanza. «Tu non mi amerai. Forse mi porterai in un istituto, e io andrò nell'istituto e non sarò mai la tua donna, né niente». «Io ti amo, Maria». «No, non è vero», e aggiunse con dolore e speranza. «Ma non ho baciato nessun uomo». «Allora baciami». «Lo desideravo anch'io», disse Maria. «Ma non so come si fa. Quando mi fecero quelle cose, mi difesi finché non vidi più niente. Mi difesi finché uno mi si mise sulla testa, e allora lo morsi. E poi mi legarono la bocca e mi tennero ferme le braccia dietro la testa, e degli altri mi fecero delle cose». «Io ti amo, Maria, e nessuno ti ha fatto niente. Te non possono toccarti, nessuno ti ha toccato, coniglietto. Lo credi davvero? Lo so. E puoi amarmi? Adesso era di nuovo tutta calda contro di lui. Posso amarti ancora di più. Cercherò di baciarti molto bene. Basta che mi baci. Non so come si fa. Baciami. Maria lo baciò sulla guancia. No. Ma dove si mettono i nasi? Mi sono sempre domandata dove si ficcano i nasi. Guarda, volta la testa. E le loro bocche si incollarono. E lei gli si strinse forte, e la sua bocca si aprì un poco, gradualmente, e a un tratto, abbracciandola, egli fu felice, come non era mai stato in vita sua. Leggero, allegro, esultante, felice nel suo intimo, spensierato, senza più stanchezza, senza più preoccupazioni, provando solo un godimento profondo. «Coniglietto mio», disse, «mio tesoro, mia dolcezza, mia lunga bellezza». Si svegliò al primo chiaror dell'alba e la ragazza era sparita. «Bueno», egli disse a se stesso, sentendo la carezza familiare della fodera di flanella mentre allargava le gambe. Poi le riavvicinò e si voltò su un fianco, girando le spalle alla direzione dalla quale sarebbe sorto il sole. «Che mas dà? E perché non dovrei dormire un altro poco?» Dormì finché un rumore di aeroplani lo svegliò. Steso sul dorso vide gli aeroplani, una pattuglia fascista. Tre Fiat minuscoli e lucenti, volare rapidi nel cielo della montagna, nella direzione dalla quale egli ed Anselmo erano venuti il giorno prima. I tre apparecchi sparirono e ne apparvero poi altri nove, a tre, tre cunei microscopici a un'altezza ancora maggiore. Nell'imboccatura buia della caverna, Pablo e lo zingaro osservavano il cielo. Robert Jordan continuava a giacere in moto e a un tratto nel cielo, pieno dell'alto rombo martellante, si udì un rombo nuovo, un bombito sordo, e altri tre apparecchi volarono a solo 300 metri sulla radura, tre bombardieri bimotori Heinkel. La testa nell'ombra della roccia, Robert Jordan sapeva che non potevano vederlo e che non importava se l'avessero visto. Se cercavano veramente qualche cosa in quei monti, avrebbero veduto forse i cavalli nel recinto. Se non cercavano niente, li avrebbero forse visti ugualmente, ma li avrebbero presi per bestie della loro cavalleria. Si udì poi un bombito più forte ancora, e altri tre Heinkel, in formazione impeccabile, passarono sulla radura in volo rigido, preciso, più bassi degli altri. Il rumore martellante si avvicinò, salì fino a un apice sordante, si indebolì mentre gli apparecchi scomparivano. Robert Jordan scivolò lungo la roccia fino all'ingresso della caverna. Pablo, uno dei fratelli, lo zingaro, Anselmo, Agustin e la donna stavano sull'ingresso guardando il cielo. «Aeroplani di questa specie ne avete già visti?» chiese Robert Jordan. «Mai», disse Pablo. «Entra dentro, ti vedranno». Il sole non aveva ancora raggiunto l'ingresso della caverna, brillava ora sul prato accanto al torrente. Robert Jordan capì che né lui né gli altri potevano essere veduti nella scura ombra mattutina degli alberi e nell'ombra solida della rupe. Entrò tuttavia nella caverna per tranquillizzare i suoi compagni. «Sono molti», disse la donna. «Diventeranno molti di più», disse Robert Jordan. «Come lo sai?» domandò sospettoso Pablo. «Quelli che abbiamo visto ora saranno certo accompagnati da caccia». E in quel preciso istante udirono a una grande altitudine il loro sibilo lamentoso, e mentre gli apparecchi passavano a 1600 metri, Robert Jordan contò 15 Fiat in formazione a cuneo, come un branco di anatre selvatiche in gruppi a V di tre. Le facce all'ingresso della caverna avevano tutta un'espressione molto seria. «Non avete mai visto tanti aeroplani?» domandò Robert Jordan. «Mai», rispose Pablo. «A Segovia non ce n'è molti?» «Non ce n'è mai stati molti. Ne vedevamo generalmente tre. Qualche volta sei caccia, o forse tre Junker, di quelli grandi con tre motori, e dietro i caccia. Non avevamo mai visto aeroplani come questi». «Male?» pensò Robert Jordan. «Malissimo. Questo concentramento di aeroplani non significa niente di buono. Starò attento a udire se sganciano bombe». «Ma no, le nostre truppe non possono essersi ancora ammassate per l'attacco. Non attaccheranno certo prima di stasera o di domani sera. Ora è troppo presto. Non cominceranno certo a muoversi a un'ora simile». «Vorrei parlarti», disse Robert Jordan ad Anselmo. Anselmo uscì dall'ingresso della caverna e i due si addentrarono un poco nel bosco fermandosi presso un pino. «Che tal?» interrogò Robert Jordan. «Come va?» «Bene». «Hai mangiato?» «No, nessuno ha mangiato». «Allora mangia e prenditi qualche cosa per la colazione. Devi andare a sorvegliare la strada. Segna tutto quello che passerà sulla strada nei due sensi». «Non so scrivere». «Non è necessario». Robert Jordan strappò due pagine del suo taccuino e tagliò con il coltello tascabile un mozzicone della sua matita. «Prendi questo e fa un segno così. Per i carri armati». E disegnò un carro armato di profilo. «Fai un segno per ogni carro e quando sono quattro, tagliali così. Tutti e quattro se ne passa un quinto». Anche noi contiamo così». «Bene, poi fai quest'altro segno. Due ruote e una cassa per gli autocarri. Se sono vuoti fai un cerchio, se sono pieni di soldati fai una linea dritta. Un segno così per i cannoni, per i grossi così e per i piccoli così. Questo segno qui per le automobili, questo per le ambulanze, due ruote e una cassa con una croce sopra. Un segno per la fanteria, per ogni compagnia di soldati così, vedi? Ecco, un quadratino e questo segno vicino. Per la cavalleria così. Una specie di cavallo, una scatola con quattro gambe, significa un reparto di 20 cavalli, capito? Per ogni reparto un segno». «Sì, è molto ingegnoso». «Ed ora attento». Robert Jordan disegnò due grandi ruote, circondate da circoli e un trattino che doveva rappresentare una canna di cannone. «Queste sono batterie anticarro, hanno le ruote gommate. Ecco il segno che le rappresenta. E queste sono le batterie antiaeree, due ruote con una canna di cannone girata in alto. Segnerai anche questo, capito? Hai mai visto cannoni simili?» «Sì», disse Anselmo. «Certo, ho capito». «Porta lo zingaro con te e fagli vedere dove ti apposterai, così potremo darti il cambio. Trovati un posto sicuro, non troppo vicino, da dove sia possibile osservare attentamente e con comodo la strada, e resta lì finché non ti verranno a dare il cambio». Tornarono verso la caverna. «Mandami qui Raphael», disse Robert Jordan, fermandosi presso l'albero. Anselmo sparì nella caverna, lasciandosi ricadere la coperta alle spalle. Arrivò poi lo zingaro, comodamente, pulendosi la bocca con la mano. «Che tal?» disse lo zingaro. «Ti sei divertito stanotte?» «Ho dormito». «Meno male», disse lo zingaro. «Hai una sigaretta?» «Senti», disse Robert Jordan, cercandosi in tasca le sigarette, «voglio che tu accompagni Anselmo al posto dal quale dovrà sorvegliare la strada. Lo lascerai lì e osserverai bene il posto per poterci poi accompagnare me o chiunque gli darà il cambio. Poi andrai a metterti in un punto da dove si veda bene la segheria e guarderai se laggiù ci sono cambiamenti». «Che cambiamenti?» «Quanti uomini ci sono ora lassù?» «Ce n'erano 8. Va a vedere quanti ce ne sono adesso. E sappimi dire con quali intervalli danno il cambio alle sentinelle del ponte». «Andavano a bombardare un aeroporto», disse Robert Jordan mentre entravano nella caverna. «Ne sono quasi certo». «Che dici?» domandò la donna di Pablo mentre gli versava una tazza di caffè e gli tendeva una scatola di latte condensato. «Latte? Che lusso! E perché sono venute da queste parti ora?» domandò la donna. «Per quale motivo? Non avevamo visto mai apparecchi simili noi, né tanti. Preparano forse un attacco?» «Ieri notte c'è stato molto traffico sulla strada?» domandò Robert Jordan. La ragazza, Maria, gli si era messa vicino, ma lui non la guardava. «Ehi tu, Fernando!» disse la donna. «Ieri sera sei stato alla granja, c'era movimento laggiù?» «No!» rispose l'interrogato. «Qualche camion, come al solito!» Robert Jordan lo vedeva per la prima volta. Era un uomo sui 35 anni, guercio, tarchiato, con una faccia aperta. «Un paio di automobili militari, ma nessun movimento di truppe, finché ci sono stato io». «Vai ogni sera alla granja?» gli domandò Robert Jordan. «Io ho un altro», rispose Fernando. «Qualcuno ci va sempre. A sentire le novità, comprare tabacco e altre piccole cose», spiegò la donna. «Abbiamo gente lì?» «Sì, perché no? Gli operai della centrale elettrica e degli altri». «E che notizie c'erano?» Pues nada, niente, nel nord va sempre male, ma questa non è una novità, nel nord è sempre andata male, fin dal principio. Hai sentito notizie da Segovia? No, ombre, non ho chiesto. E a Segovia ci vai mai? Qualche volta, disse Fernando, ma è pericoloso, ci sono dei posti di controllo severissimi dove ti chiedono i documenti. Conosci l'aeroporto? No, ombre, so dov'è, ma non ci sono stato mai. Lì non fanno altro che chiedermi documenti. E ieri sera nessuno parlava degli aeroplani? Alla granja, nessuno. Ma stasera ne parleranno certamente. Parlavano soltanto del discorso alla radio di Kei Podegliano. Ah, dimenticavo. Pare che la Repubblica prepari un'offensiva. Che? La Repubblica prepara un'offensiva? Dove? Non si sa di certo, forse qui, forse in un'altra parte della Sierra. Tu ne hai sentito parlare? Questo dicono la granja? Sì, ombre, me ne ero scordato, ma che vuoi, si parla sempre tanto di offensive. Da dove viene questa voce? Da dove? Boh, da varie parti. Gli ufficiali parlano nei caffè di Segovia e di Avila e i camerieri ascoltano. La voce circola in un baleno. Già da qualche tempo si parla di un'offensiva della Repubblica da queste parti. Della Repubblica o dei fascisti? Della Repubblica. Se si trattasse dei fascisti lo saprebbero tutti, no? Questa dovrebbe essere un'offensiva importante. Molti dicono persino che vi saranno due offensive. Una qui e l'altra sopra l'Alto del León, dalle parti dell'Escurial. Ne hai sentito parlare? Nada, ombre, niente. Ah, sì, sì, sì. Si dice che i repubblicani tenteranno di far saltare i ponti se faranno l'offensiva. Ma i ponti sono sorvegliati. Scherzi? Domandò Robert Jordan, sorseggiando il caffè. No, ombre, disse Fernando. Fernando non scherza mai, disse la donna. Sarebbe una fortuna per noi se scherzasse. Allora, disse Robert Jordan, grazie per tutte queste notizie. Non hai sentito altro? Dimmi. No. Ma dicono, come sempre, che manderanno dei soldati a ripulire le montagne. Si dice perfino che sono già per strada, sarebbero già partiti da Valladolid. Ma dicono sempre frottole simili, non è il caso di badarci. Tu, disse quasi selvaggiamente Pilar a Pablo, tu che chiacchieravi tanto di sicurezza. Pablo la guardava pensieroso, grattandosi il mento. Tu, ribatté, con i tuoi ponti. Quali ponti? Domandò candidamente Fernando. «Stupido», gli disse la donna di Pablo. «Testone, tonto, bevi un'altra tazza di caffè, chissà che non ti venga in mente qualche altra novità». «Non t'arrabbiare, Pilar», disse calmo e sereno Fernando. «E poi non bisogna nemmeno lasciarsi impressionare dalle chiacchiere. Ho raccontato a te e ai compagni tutto quello che ricordavo». «E non ricordi nient'altro?» domandò Robert Jordan. «No», disse con dignità Fernando. È una fortuna che mi sia ricordato di queste cose, perché siccome erano soltanto chiacchiere, non ci feci caso. Dunque potrebbe esserci dell'altro. Sì, forse, ma non ci ho badato. Da un anno non sento altro che chiacchiere. Thank you.